il GR di Radio Popolare si ritorna in diretta oggi nel Last Minute, né altri suoni, ma un approfondimento a sorpresa, una conferenza stampa ieri, l'organizzazione Scriptabo, la casa di chi scrive, in Mediateca San Lazzaro, una presentazione per, non posso definirlo Last Minute, però la presenza, l'intensità, l'accoglienza, la biodiversità per appassionate e appassionati e non solo di letteratura e di lettura è importante in un momento in cui anche questo nostro, mi condivido ovviamente questa peculiarità di passione per lettura e letteratura, sta avendo intersezioni anche con qualcosa come digitalizzazione, informatizzazione. È ovvio, era l'unica, io lo chiamavo l'unico baluardo di resistenza, non è per così dire una lotta contro i mulini a vento quella che stanno intraprendendo i protagonisti di Scriptabo e di Lectura Mundi. Io sono ancora molto legato, come ben sapete, a questo donquisciottesco motivo di lettura su carta, di lettura sui libri, di condivisione e percorsi legati a questo aspetto più materico e ovviamente niente affatto fluido. E a proposito di tutto ciò, Lectura Mundi 4, 5, 6, 18, 19, 20 aprile, 23, 24, 25, 29 maggio, Roberto D'Alessandro, Carlo Lucarelli, che conosceremo, che avremo modo di ascoltare a breve, Stefano Calabrese, Bjorn Larsson, Marcello Fois, insomma, a questi motivi di incontro si aggiungono anche laboratori, anche motivi di conversazione con conferenze e, come vi ho detto, la presenza di protagonisti e le motivazioni di un'importanza letteraria e di lettura concreta saranno i protagonisti per Lectura Mundi 24, Scriptabo, la casa di chi scrive. Iniziamo questo nostro approfondimento con la voce di Marco Bettini per l'organizzazione di Lectura Mundi, di cui ieri vi è stata una prima presentazione a San Lazzaro di Savena in Mediateca. Anticipiamo con tempo, perché ovviamente merita questo approfondimento emotivo di incontro che abbiamo a San Lazzaro. Allora, ci presentiamo. Intanto siamo con Marco Bettini di Scriptabo, che è l'associazione delle scrittrici e degli scrittori di Bologna e dintorni. Possiamo approfondire allora questo vasto, come si può dire, motivo di incontro letterario e non solo? Ma noi adesso siamo di nuovo operativi da un anno e mezzo e ci siamo chiesti cosa potevamo fare come associazione. Ci siamo anche detti che, visto che abbiamo una vocazione sociale molto forte, siamo una PS, un'associazione di promozione sociale, abbiamo detto che forse più che promuovere i nostri libri converrebbe promuovere l'esercizio della lettura. E qui così abbiamo un po' creato questo festival che si basa sull'idea, diciamo, che leggere carta e leggere romanzi, quindi leggere, fare una lettura immersiva, è molto diverso che fare una lettura digitale saltando da un link a un altro. Diciamo, si può leggere digitale anche un romanzo, però è già, diventa una lettura immersiva. Allora, tra lettura immersiva e lettura saltapicchiante cambia il format del cervello, e quindi ci siamo chiesti se valesse la pena di interrogare questo cambiamento in corso. Trovate alleato in questo concetto da lettore appassionato con questo modo su carta, piuttosto che, e in questo momento ce n'è veramente bisogno di fare un focus e di diffondere e incoraggiare anche. Thank you. proseguiremo anche con il Voltiamo Pagina, con i Last Minute, questa edizione straordinaria, è un'apertura, Lettura Mundi, passione per la lettura, la organizzazione Scriptable, gli appuntamenti con i protagonisti che verranno elencati a breve. Beh, sì, la mia è una lotta contro i mulini a vento, ma l'importante è leggere, questo è fondamentale. Poi ovviamente è ben diversa e ognuno sceglierà la sua metodologia. Pensate che su Robinson di Repubblica l'apertura costantemente è dedicata ai gruppi su TikTok per quanto riguarda la lettura condivisa. Trova critica da parte mia, ovviamente, ma indubbiamente la qualità letteraria parte poi dalla carta scritta, dalla carta stampata, da qualcosa di concreto per diversi motivi, e ne avremo modo di approfondimento, e non solo per si saltella da un link all'altro, ecco, salta picchiante è stata definita da Marco Bettini, termine che condivido. Comunque poi avremo anche il parere di Carlo Lucarelli, che ha una visione più estesa per quanto riguarda tutto ciò, e chiaramente quello che vediamo un po' come avversione, conoscerlo meglio indubbiamente è un valore aggiunto. Ma parliamo di protagonisti. Per quanto riguarda, leggo alcuni protagonisti, c'è un parterre de roi veramente forbito. Ma abbiamo Lena Ponomareva, che è una scrittrice ucraina, che diciamo era l'opportunità di parlare anche di temi purtroppo molto presenti e contemporanei. Abbiamo Carlo Lucarelli, il nostro presidente, il presidente Scriptable. Poi abbiamo Bjørn Larsson, che è un scrittore famoso, docente di letteratura inglese a Parigi, mi pare. Comunque verrà da noi e per l'occasione parlerà in italiano, perché parla anche italiano, scrive in italiano, quindi sarà l'occasione di conoscerlo meglio. Poi abbiamo Marcello Fois, che farà l'ultima lectio magistralis a proposito di un libro che noi abbiamo dato alle scuole da leggere, che è Accabadore di Michela Murgia. Sì. Ha aperto un concorso su questo libro in cui chiediamo loro di leggerlo e di produrre un video sul libro, su quello che il libro gli ha dato o non gli ha dato, su quello che gli è piaciuto oppure no, comunque insomma che ci dimostrassero di essere entrati nel testo. Marcello Fois farà l'ultima lezione, perché era amico anche personale di Michela Murgia, con cui ha lavorato anche insieme, e poi la sera dell'ultima giornata ci sarà uno spettacolo con Roberto Mercadini. Come si inizia e quando si comincia? Allora, questa è forse l'unica cosa che un po' ci dispiace, è che siamo un po' sparpagliati, nel senso che sono 10 giornate sparse tra aprile e maggio. Allora, iniziamo con la Ponomareva il 4, il 5, il 6 aprile, poi abbiamo Lucarelli il 18, il 19, il 20 aprile e Bjørn Larsson il 23, il 24, il 25 maggio. Poi abbiamo la premiazione del concorso Vince chi legge per gli studenti e lo spettacolo di Mercadini il 29 maggio. Comunque parliamo di pubblico a questo punto, è per tutte e per tutti. Sì, è per tutto, nel senso che gli scrittori, la prima serata, il giovedì sera, diciamo, con Ponomareva, Lucarelli e Larsson, è aperta a tutti. La mattina dovrebbe essere riservata alle scuole di San Lazzaro dintorni. Poi abbiamo la sera del venerdì alle 18 una conferenza di docenti di neurobiologia, psicologia e di letteratura, che spiegano come cambia il cervello leggendo in un modo invece che in un altro. E poi abbiamo il sabato un laboratorio, questo è solo per una ventina di persone, un laboratorio di lettura scrittura per chi è interessato a iscriversi e a farlo con la Ponomareva, Lucarelli e Larsson. Festival della lettura, Lettura Mundi, io grazie, buona giornata. Grazie a voi. Con tre scrittori che si terranno presso la Mediateca di San Lazzaro, un una sede molto prestigiosa ed estesa anche per quanto riguarda l'accoglienza. Avremo un ciclo di 3 conferenze aperte al pubblico per la Sala Colonne a Bologna e in via Mazzini 152. La chiusura del festival il 29 maggio e premiazione del concorso Vince chi legge. Ci sarà lo scrittore Marcello Fois che terrà una lectio magistralis appunto sul romanzo Accabadora, che ho letto, molto bello. Incontrato Carlo Lucarelli, onoratissimo ovviamente, ne sono stato di questa conversazione e portarlo ai microfoni di Radio Città Fujiko, presidente per quanto riguarda questa organizzazione con un'attentissima priorità per la lettura e anche uno sguardo non solo per i giovani che ovviamente saranno coprotagonisti, ma oltre tutto quello che vi è nell'immenso mondo letterario. Quindi sentiamo da Carlo Lucarelli anche un po' di divagazioni, ma sempre attinenti, come un'anticipazione di incontro per Scripta Boa Lectura Mundi 24. Abbiamo la fortuna di poter conversare con Carlo Lucarelli per questo motivo di incontro che si dipana in uno spazio veramente esteso. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno e grazie a voi. Iniziamo partendo proprio dallo spazio sul quale sarà incentrato il suo motivo di incontro. Soprattutto sulla lettura, la scrittura, la narrazione, i tempi, la memoria, il riuscire a raccontare le cose. E tante cose ce ne sarebbero da dire anche sulle modalità di lettura. Assolutamente, infatti le diciamo, perché si legge sempre in un modo diverso. Adesso noi tendiamo a considerare sempre tutto la stessa cosa: non leggo una cosa su un display, la leggo su un computer, la leggo su un libro, l'ascolto in un podcast per esempio, le consideriamo lettura anche quello, però come dire, scattano meccanismi diversi, non alternativi, non come dire concorrenziali tra di loro, diversi. Allora vogliamo cercare di capire che cosa succede quando leggiamo qualcosa. Quando leggiamo su carta cosa succede? Beh, succede che si attiva tutto un svariate parti del cervello, poi qui abbiamo un esperto, un professore che di queste cose le sa meglio di me e ce le racconterà, però si attivano tante altre parti del cervello e si fanno operazioni diverse, lo sappiamo. E questo è un percorso che veramente dà un valore aggiunto o un valore diverso? Beh, allora, secondo me dà un valore diverso, che è anche un valore aggiunto, nel senso che si aggiunge a cose che facciamo in maniera diversa. Io non ho mai messo in concorrenza i vari modi, no, per esempio di ascoltare una storia, non è che il teatro è alternativo al cinema. Quando è nato il cinema abbiamo detto è morto il teatro, e poi quando è arrivato internet abbiamo detto è morta la lettura. No, non è vero. Se riusciamo a far interagire tutte le cose tra di loro, a fare in modo che ti scatti una scintilla mentre stai facendo una cosa in un posto, che ti fa venire voglia di andare in un altro a fare un'altra cosa, che fa scattare un'altra scintilla, allora ora tutto va bene. Quindi un aspetto, stiamo facendo osservazione su un aspetto che non ostacoli l'altro, ecco. Questo sicuramente, che non ostacoli l'altro, è chiaro, quando cominciamo a considerare che un aspetto è quello principale, vogliamo fare solo quello, imporre solo quello o lasciarci trascinare solo da quello, appunto i cellulari, la lettura di quel tipo per i bambini, e allora sbagliamo. Secondo me noi dobbiamo giocarci, no? L'uno assieme all'altro. In questo momento com'è, a proposito di una lettura su carta, la situazione generale vista da un addetto ai lavori? Certo. Beh, allora noi abbiamo sempre detto che in Italia non si legge, sì, no? Tutte queste cose qua, i ragazzi non leggono. Allora, da un addetto ai lavori io direi che sì, certo, ci sono posti in cui la situazione è migliore. Ma in una metropolitana si dice sempre, in un altro paese sono tutti seduti lì con in mano un libro. Va bene, da noi tutti hanno in mano un cellulare, però non è detto che stiano, non so, come dire, scrollando su TikTok, magari stanno anche facendo un'altra cosa. Però al di là di quello, sì, certo, abbiamo una situazione peggiore rispetto ad altre, però dobbiamo andare a vedere dov'è il problema. Diciamo che i ragazzi non leggono, in realtà i ragazzi leggono un sacco, si leggono dei tomoni giganti molte volte, no? La saga di Harry Potter, tutte quelle robe lì, che quando ero piccolino io non mi leggevo, per esempio. sono gli adulti che non leggono, che arrivati ad un certo punto dicono: eh beh, io non ho più tempo per leggere. Sì, una volta quando ero un ragazzo studiavo, leggevo, adesso devo lavorare, e siccome devo lavorare non ho tempo per leggere. Ed è un discorso sbagliato, naturalmente, perché sì, certo, la vita è quello che è, però leggere significa, fa parte, no, del costruirsi la vita, e certo, leggere bene forse significa poi lavorare meglio o scegliere meglio, no, oppure imporsi meglio rispetto a certi diritti, insomma tutte queste cose. Non è messa così male la situazione, secondo me. Noi dobbiamo lavorare su quello che c'è. Invece di lamentarci che c'è, non lo so, un 60% di ragazzi che non leggono, lavoriamo su quei 40% che leggono e poi magari arriviamo anche a quel 60%. Giustamente, e ci mancherebbe, più diplomatico, anche preciso per quanto riguarda questo paragone, questa realtà letteraria e i percorsi che sta intraprendendo, no? Beh, abbiamo visto cosa è successo alla musica, purtroppo, con tagliamolo con l'accetta, poi adesso ha preso declinazioni diverse, è talmente imponente la rete che ha preso declinazioni diverse, però purtroppo abbiamo visto con la musica quello che è successo. Certo, è diverso, diverso, ma in che modo? Ecco, l'approfondimento poi si può traslare ovviamente anche in un mondo letterario, una modalità di lettura. Seguite il programma, ho voluto portarlo in un atipico format che anticipa la rubrica In Scena. Come ben sapete, il venerdì ci porta a teatro e a breve andremo sul palcoscenico di Agorà, quindi avremo modo di riportare poi il venerdì a teatro come di consueto al Breakfast Club, però ho preferito iniziare in questo modo lo spazio di rubrica perché mi pare un motivo di conversazione molto molto interessante. A tale proposito, adesso un pubblico, seppur una domanda un po' generica, vicino a noi, da conduttore di rubrica letteraria e anche da lettore molto accanito, adesso il pubblico di cosa ha fame? Allora, il pubblico ha fame di storie sicuramente, perché è sempre stato così. Vediamo per esempio il boom che c'è nei podcast, per dire, no? I nostri cugini dal punto di vista della lettura, che il podcast è come se ci fosse uno che ti sta leggendo a voce, come quando uno è malato e ha letto. Quando ero piccolino io, mia mamma mi legge i libri. Però è diverso, nel senso che, faccio un caso personale, quando leggo io cambio nel pensiero la voce. Assolutamente, ma infatti sono punti di forza da una parte e dall'altra. Adesso, senza stare sul podcast, che non è l'argomento, però quello è proprio la voce pura, no? La pura parola che risuona nella tua testa perché te la dice qualcuno. La lettura è riempire la parola di un sacco di cose, sono valori aggiunti da una parte e dall'altra. Però quando vediamo questa cosa qui, di cosa ha voglia la gente? Di sentirsi raccontare delle storie, che siano true crime, e cioè la metà oscura della nostra vita che ci interessa perché ci fa paura e quindi non ci piace, che siano storie, proprio la storia, le storie dentro la storia o fatti strani. Secondo me quello di cui abbiamo sempre avuto bisogno è che ci vengano raccontate delle storie importanti. Importanti significa che si raccontano qualcosa anche se sono piccolissimi. Tanti giovani autori vedo che mi propongono con grande entusiasmo, voglia di farsi conoscere giustamente e anche di poter esprimere l'ispirazione. Un consiglio che vogliamo dare? Ah beh, allora i giovani autori... tanti scrivono, sì, eh? Sì, allora io ho tre consigli che sembrano contraddittori, cioè assurdi. Uno è il solito: leggere. Se uno vuole scrivere deve leggere, è inutile, perché altrimenti gli vengono in mente due idee e non si accorge che ce ne sono altre 10 che lui può elaborare a modo suo. Quindi va bene, se hai due parole per dire una cosa non ti bastano, devi trovare la terza. Se non la conosci la devi imparare. Il secondo è scrivere, che è una cosa assurda. Cioè, io scrivo? No, devi continuare a scrivere. Molte delle cose che io ho letto sono state scritte una volta, magari tempo fa. No, scrivere vuol dire scrivere, riscrivere, continuare a scrivere, sperimentare, lavorarci dentro. È un lavoro artigianale la scrittura, non è che impari a fare, no, un oggetto perché ti sei svegliato così. Il terzo è farsi leggere, che vuol dire farsi leggere anche da persone che non sono i tuoi vicini, che non sono quelli che ti diranno che sei bravo, ma anzi di quelli che sei quasi sicuro che diranno che ti fai schifo. Ecco, loro, se loro ti dicono sì, fai schifo, come succede a me, io una mia lettrice che è così, sì, fai schifo, sei negato, non dovresti farlo. Però quel pezzettino non era male. Ecco, quel pezzettino lavora non era su male. Quel pezzettino. Esatto, è un grande successo. Certo, la situazione dell'editoria in Italia. Allora, anche lì non è male, ovviamente abbiamo i problemi che abbiamo, ci vorrebbe più coraggio secondo me dal punto di vista dell'editoria. Abbiamo delle case editrici che stanno facendo, soprattutto quelle medie, ma anche quelle grandi, sì. Insomma, dove c'è anche un mondo di case medie molto sì. fertile, attivissime, che vanno a scoprire delle cose che non immaginiamo. Da quel punto di vista lì stiamo andando bello, sì. Cioè, se uno ha voglia di leggersi un buon libro può trovarlo, deve cercarlo molte volte perché magari non ha le recensioni giuste, però c'è, ci sono e come. Io la ringrazio tantissimo e le auguro buona giornata. Grazie, grazie a voi tutti. Sempre interessante ascoltare queste parole, Carlo Lucarelli. Intanto sottolineo l'appuntamento, sarà il 18 aprile alle ore 21 alla Mediateca di San Lazzaro, dalla satira patria molto in piccolo questo titolo, una Lectio Magistralis curata da Carlo Lucarelli, dal percorso di storia, dalla storia patria al thriller, Lectio Magistralis, che aperta al pubblico, scusate, molto piccolo nel comunicato stampa, eh? Comunque grazie a Carlo Lucarelli, grazie a voi per l'attenzione, a breve andremo in scena e quindi un po' di musica, pubblicità e poi il venerdì sul palcoscenico di Radio Città Fujiko. A tra poco.